Il Troi. Son cedinis lis chiarandis, dod le fresc di lunc il Troi. Do l'intorni son la bade, secolio sembe soi. Abracet, senza pensirs, pren, intendisi cui voi, riducia, e popus asi, c'è tan ben costimbe soi. E pometisi a polsa in tun fresc, sui tiei zenoi. No le mont calpai la pas, che si giol così besoi. Son cidini.